Se mi lasci solo per andare al mare, io non mi perdo. Se mi compri un ghiacciolo, io mi sento contento. Non vi è un riparo in quest'estate, io lo sento. Se mi copri con l'asciugamano, io sono contento. In questa magia che si inerpica, noi sogniamo i grandi lidi, le grandi favole. I grandi lidi, le grandi storie. Se mi lasci solo per andare al mare, io non mi perdo. Se mi compri un ghiacciolo, io mi sento contento. Certo che fare lo zoccolo non mi sembra un gran obiettivo per il nostro rapporto. No, perché conoscendoti non mi sembra un'ottima cosa per sviluppare il nostro rapporto. Sappiamo come va a finire e come è andato a iniziare il nostro rapporto. La tua natura non si cambia, è per questo che ho intenzione di toccare il nostro rapporto. Il nostro rapporto. Solo io mi sento contento.